Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Scendiamo alla Bastiglia. Il freddo che io sopporto perché l'immagino come la cosa più pulita al mondo era nell'atrio della stazione più sudicio quel caldo in un porto di mare e senza l'allegria. Marta si lamentava di crampi, si aggrappava al mio braccio. Deplorevole coppia che dimenticava la propria bellezza, giovinezza, vergognosa di sé come una coppia di mendicanti. Trovavo la gravidanza di Marta ridicola. Camminavo a occhi bassi. Com'ero distante dall'orgoglio paterno. Vagavamo sotto la pioggia gelida tra la Bastiglia e la Gare de Lyon. Davanti a ogni albergo, per non entrare, inventavo una scusa. Dicevo a Marta che ero in cerca di un albergo conveniente, un albergo di passeggeri, solo di passeggeri. In piazza della Gare de Lyon mi diventò difficile continuare a sottrarmi. Marta mi impose di interrompere quel supplizio. Mentre aspettava fuori, entrai in un atrio, sperando non si sa che. Il portiere mi chiese se volevo una stanza. Era facile rispondere sì, era troppo facile. E cercando una scusa, come un topo d'albergo colto sul fatto, gli domandai della signora Lacombe. Glielo domandai arrossendo, con la paura di sentirmi rispondere. «Mi prende in giro, giovanotto, è lì per strada». Consultò dei registri. Dovevo essermi sbagliato di indirizzo. Uscii, spiegando a Marta che non c'era più posto e che non lo avremmo trovato nel quartiere. Tirai un sospiro di sollievo. Affrettai il passo come un ladro che scappa. La mia fisima di sfuggire a quegli alberghi dove trascinavo Marta mi impediva di pensare a lei. Adesso la guardavo, povera piccola. Trattenni le lacrime e quando lei mi domandò dove avremmo cercato un letto, la implorai di non essere in collera e di far ritorno con buon senso. Lei a Je, io dai miei genitori. Buon senso, fece un sorriso automatico udendo quelle parole fuori posto. La mia vergogna rese drammatico il ritorno. Allorché dopo simili crudeltà, Marta ebbe l'infelice idea di dirmi «Come sei stato cattivo». Mi adirai. La trovavo ingenuosa. Se mi stava zitta, aveva l'aria di dimenticare e mi spaventava l'idea che reagisse così perché mi considerava un pazzo. Allora non le davo tregua finché non le avessi fatto dire che non scordava affatto e che se mi perdonava io non dovevo nel frattempo approfittare della sua indulgenza e che un giorno, stufa dei miei maltrattamenti, la sua stanchezza avrebbe prevalso sul nostro amore. E mi avrebbe lasciato solo. Quando l'obbligavo a parlarmi con questa determinazione, e quantunque io non credessi alle sue minacce, provavo un dolore delizioso, paragonabile più fortemente all'emozione che mi danno le montagne russe. Allora mi buttavo su Marta e la baciavo, più appassionatamente che mai. «Dimmi di nuovo che mi lascerai». Le dicevo, trafelato, stringendola nelle mie braccia, sino a romperla. Passiva, come non potrebbe esserlo neppure una schiava, e la ripeteva per farmi piacere delle frasi di cui non capiva niente. Quella notte degli alberghi fu decisiva, fatto di cui non mi rendevo conto dopo tante altre stravaganze. Ma se io credevo che una vita intera potesse zoppicare in questo modo, Marta, lei, in un cantuccio del vagone di ritorno, stremata, atterrita, batteva i denti. Capì tutto. Forse vide anche che alla fine di questa corsa di un anno, in una vettura guidata dalla follia, non poteva esserci altra via d'uscita che la morte. L'indomani trovai Marta a letto, come al solito. Volli avvicinarmi a lei. Mi respinse dolcemente. «Non mi sento bene», disse. «Vattene, non restarmi vicino. Ti attaccherò il raffreddore». Tossiva, aveva la febbre. Mi disse, sorridendo per non aver l'aria di farmi un rimprovero, che doveva aver preso freddo il giorno prima. Malgrado il suo sgomento, mi impedì di andare a chiamare il dottore. «Non è niente», diceva. «Ho soltanto bisogno di restare al caldo». In verità non voleva, mandando me dal dottore, compromettersi agli occhi di quel vecchio amico della sua famiglia. Avevo talmente bisogno di essere rassicurato che il rifiuto di Marta mi tolse le ansie. Queste rispuntarono, e più di prima, quando, uscendo per andare a cena dai miei genitori, Marta mi chiese se potevo fare un giro e lasciare una lettera al dottore. Il giorno seguente, come arrivai a casa di Marta, lo incrociai per le scale. Non osavo interrogarlo e lo guardai con apprensione. La sua aria calma mi fece bene. Era solo un atteggiamento professionale. Entrai da Marta. Dov'era? La stanza era vuota. Marta piangeva. La testa andava sotto sul coperte. Il medico la obbligava a stare a letto fino al parto. Inoltre, al suo stato occorrevano cure, era necessario che abitasse dai suoi genitori. Ci separavano. L'infelicità non si ammette in alcun modo, solo la felicità ci sembra dovuta. Accettando questa separazione senza ribellarmi, non dimostravo coraggio. Semplicemente non capivo affatto. Ascoltavo intontito l'ordine del medico come un condannato alla propria sentenza. Se egli non impallidisce, dicono, che coraggio, niente affatto, è piuttosto mancanza di immaginazione. Quando lo si risveglia per l'esecuzione, allora egli realizza la sentenza. Nello stesso modo io capii che non ci saremmo più visti, soltanto quando vennero ad avvisare Marta che c'era la carrozza mandata dal dottore. Questi aveva promesso di non avvertire nessuno perché Marta voleva arrivare da sua madre all'improvviso. Feci fermare poco distante dalla casa di Granger. Dopo che il cocchiere si era girato 3 volte, scendemmo. Quest'uomo credeva di sorprendere il nostro terzo bacio, ma sorprendeva sempre lo stesso. Ciao, Marta, senza prendere i minimi accordi per comunicare, quasi senza dirle arrivederci, come una persona che devi raggiungere un'ora dopo. Delle vicine curiose già si affacciavano alle finestre. Mia madre notò che avevo gli occhi rossi. Le mie sorelle si misero a ridere perché avevo lasciato cadere 2 volte di fila il cucchiaio nella minestra. Il pavimento si capovolgeva. Avevo il mal di mare per la sofferenza. Non credevo miglior paragone per quelle vertigini del cuore e dell'anima che il mal di mare. La vita senza Marta era una lunga traversata. Sarei arrivato. Come ai primi sintomi di mal di mare, uno se ne infischia di raggiungere il porto e si augura di morire sul posto, così io mi preoccupavo ben poco dell'avvenire. Dopo qualche giorno il mare, meno burrascoso, mi lasciò il tempo di pensare alla terraferma. I genitori di Marta non avevano più da scoprire un granché. Non si accontentavano di trafugare le mie lettere, le bruciavano sotto i suoi occhi nel caminetto della stanza. Le sue erano scritte a matita, quasi illeggibili. le imbucava suo fratello. Non avevo più da subire scenate familiari. Ripresi il buon conversare con mio padre la sera davanti al fuoco. In un anno ero diventato un estraneo per le mie sorelle. Esse riprendevano confidenza, si riabituavano a me. Prendevo la più piccola sulle mie ginocchia e approfittando della nonna, la stringevo con una tale violenza che lei si dibatteva, metà ridendo e metà piangendo. Pensavo al mio bambino, ma ero triste. Mi sembrava impossibile di provare per lui una tenerezza più forte. Ero abbastanza maturo perché un neonato fosse qualcos'altro che non un fratello o una sorella. Mio padre mi consigliava di distrarmi. Questi consigli nascono dalla calma. Che avevo da fare se non quello che non avrei più fatto? Al rumore di un campanello, al passaggio di una vettura, trasalivo. Scrutavo nella mia cella i minimi segnali di liberazione. A forza di aspettare i rumori che potevano annunciare qualcosa, le mie orecchie un giorno udirono le campane. Erano le campane dell'armistizio. Per me l'armistizio voleva dire il ritorno di Jacques. Già lo vedevo al capezzale di Marta, senza che io avessi la possibilità di agire. Ero perduto. Mio padre tornò a Parigi. Voleva che andassi con lui. Non si manca una simile festa. Non osai rifiutarmi. Temevo di sembrare un mostro. Poi, tutto sommato, nella mia frenesia di sventura, non mi dispiaceva andare a vedere la gioia degli altri. Ammetto che questa non mi attirava un granché. Mi sentivo solo in grado di provare certi sentimenti. Cercavo il patriottismo. La mia ingiustizia forse non mi mostrava che l'allegria di un congedo inatteso, i caffè aperti più tardi, il permesso ai soldati di abbracciare le midinette, quello spettacolo che pensavo mi avrebbe abbattuto, reso invidioso, persino distratto dal contagio di un sentimento sublime, mi annoiò, come una festa di Santa Caterina. Da qualche giorno non ricevevo nessuna lettera. Uno dei rari pomeriggi in cui cadde la neve, i miei fratelli mi consegnarono una missiva. Era una lettera glaciale della signora Granger. Mi pregava di andare da lei al più presto. Che cosa poteva volere da me? La fortuna di essere in contatto, ancorché in diretto con Marta, spense le mie angosce. Immaginavo la signora Granger che mi proibiva di rivedere sua figlia, di corrispondere con lei, e io che l'ascoltavo a testa bassa come un cattivo allievo. Incapace di sbottare, di andare in collera, nessun gesto avrebbe rivelato il mio odio. L'avrei salutata gentilmente e la porta si sarebbe richiusa per sempre. Allora avrei trovato le risposte, gli argomenti in malafede, le parole sferzanti che avrebbero dato alla signora Granger un'immagine dell'amante di sua figlia meno penosa di quella di un collegiale colto in fallo. Prevedevo la scena minuto per minuto. Nel momento in cui penetrai nel salottino, mi sembrò di rivivere la mia prima visita. Quella visita dunque voleva dire che forse non avrei più rivisto Marta. La signora Granger entrò. Soffrivo per lei della sua piccola statura, giacché si sforzava di essere altera. Si scusò di avermi disturbato per niente. Sosteneva di avermi inviato quel messaggio per ottenere un'informazione troppo complicata da chiedere per iscritto, ma che nel frattempo aveva avuta. Quell'assurdo mistero mi tormentò più di qualsiasi catastrofe. Nei pressi della Marna incontrai il piccolo Granger appoggiato a una cancellata. Aveva ricevuto una palla di neve in piena faccia. Piagnucolava. Lo vezzeggiai. Gli chiesi di Marta. Mi disse che sua sorella mi chiamava. La loro madre non voleva sentir ragione, ma il loro padre aveva detto: «Marta sta malissimo, voglio che le si obbedisca». Capii in un attimo il comportamento così borghese, così strano della signora Granger. Mi aveva chiamato per rispetto a suo marito e alla volontà di una moribonda, ma finito l'allarme, con Marta sana e salva, si riprendevano le consegne. Dovetti rallegrarmene. Mi dispiaceva che la crisi non fosse durata il tempo di poter vedere l'ammalata. Due giorni dopo Marta mi scrisse. Non alludeva alla mia visita, certamente gliel'avevano taciuta. Marta parlava del nostro futuro, con un tono particolare, sereno, celestiale, che un poco mi turbava. È forse vero che l'amore è la forma più violenta dell'egoismo, per il fatto che, in cerca di un motivo del mio turbamento, mi dicevo che ero geloso di nostro figlio, di cui oggi Marta parlava più che di me. L'aspettavamo per marzo. Un venerdì di gennaio, i miei fratelli, tutti trafelati, ci diedero la notizia che il piccolo Granger aveva un nipote. Non capii la loro aria trionfale, né perché avevano corso tanto. Non sospettavano certo dello straordinario che quella notizia poteva avere per me. Ma uno zio, per i miei fratelli, era una persona anziana. Che il piccolo Granger fosse zio, aveva quindi del prodigioso ed erano accorsi per farci partecipare alla loro meraviglia. L'oggetto che abbiamo costantemente sott'occhio è il più difficile da riconoscere se gli cambiamo un po' di posto. Nel nipote del piccolo Granger non riconobbi subito il figlio di Marta. Mio figlio. All'improvviso dentro di me si faceva buio. In quella notte i miei sentimenti si scompigliavano, cercavo me stesso, cercavo a tentoni delle date, delle precisioni, contavo sulle mie dita, come avevo visto fare a Marta qualche volta, senza sospettarla allora di tradimento. D'altronde questo esercizio non serviva a niente, non sapevo più contare. Che cos'era quel bambino che aspettavamo per marzo e che nasceva in gennaio? Tutte le spiegazioni che cercavo per questa irregolarità me le dava la mia giustizia. Di colpo ebbi la certezza. Il bambino era di Jacques. Non era forse venuto in licenza 9 mesi prima? Così da allora Marta mi mentiva. D'altra parte, non mi aveva già mentito a proposito di quella licenza? Non mi aveva prima giurato di essersi rifiutata a Jacques durante quei maledetti 15 giorni, per confessarmi molto tempo dopo che gli l'aveva posseduta parecchie volte? Non avevo mai riflettuto a fondo che quel bambino potesse essere di Jacques. E se all'inizio della gravidanza di Marta avevo potuto augurarmi vilmente che così fosse, oggi, credendomi di fronte all'irreparabile, dovevo proprio confessare che, cullatomi per mesi e mesi nella certezza della mia paternità, amavo quel bambino che non era mio. Perché non avrei dovuto sentirmi un cuore di padre nel momento in cui veniva a sapere di non esserlo? È chiaro. Mi trovavo in una confusione incredibile, come buttato in acqua in piena notte senza saper nuotare. Non capivo più niente. Soprattutto una cosa non capivo. L'ardire di Marta di aver dato il mio nome a quel figlio legittimo. In certi momenti vedevo qui una sfida lanciata alla sorte che non aveva voluto il bambino fosse mio. In altri momenti non intendevo vederci nient'altro che una mancanza di tatto. Una di quelle carenze di gusto che spesso mi avevano colpito in Marta, che erano solamente eccessi d'amore. Avevo cominciato una lettera di insulti. Credevo di doverviela per dignità. Ma non mi venivano le parole, perché il mio spirito era altrove, in regioni più nobili. Stracciai la lettera, ne scrissi un'altra in cui lasciai parlare il cuore. Chiedevo perdono a Marta. Perdono? Per che cosa? Sicuramente che quel figlio fosse di Jacques. La imploravo di amarmi lo stesso. L'uomo molto giovane è un animale ribelle al dolore. Aggiustavo il mio destino in modo diverso. Quasi, quasi accettavo il figlio di un altro. Ma prima ancora che terminasse la mia lettera, ne ricevetti una di Marta, traboccante di gioia. Quel figlio era nostro. Nato 2 mesi in anticipo, doveva essere messo in un'incubatrice. Sono stata per morire, diceva. Questa frase mi divertì. Poiché in me non c'era posto che per la gioia, avrei voluto tornare a partecipare di quella nascita il mondo intero, annunciare ai miei fratelli che anch'essi erano zii. Con gioia mi disprezzavo. Come avevo potuto dubitare di Marta? Questi rimorsi, confusi alla mia felicità, più che mai me la facevano amare. Altrettanto mio figlio. Nella mia incoerenza benedicevo il mio errore. Tutto sommato ero contento di aver conosciuto per qualche istante il dolore. Perlomeno lo credevo. Ma niente rassomiglia meno alle cose stesse di ciò che gli si avvicina. Un uomo che ha rischiato di morire crede di conoscere la morte. Il giorno in cui essa finalmente gli si presenta, egli non la riconosce. Non è lei, dice, morendo. Nella sua lettera Marta inoltre mi diceva: ti assomiglia. Avevo visto dei neonati, i miei fratelli e le mie sorelle, e sapevo che solo l'amore femminile può scoprirvi le auspicate somiglianze. Ha i miei occhi, aggiungeva, e anche il suo desiderio di vederci riuniti in un solo essere non poteva che farle riconoscere in lui i suoi propri occhi. I Granger non nutrivano più alcun dubbio, ma le dicevano Marta, facendosi tuttavia suoi complici affinché lo scandalo non ricadesse sulla famiglia. Il medico, altro complice dell'ordine, celando la nascita prematura, si incaricava di spiegare al marito con qualche storiella la necessità dell'incubatrice. Il giorno seguente ritenni fosse naturale il silenzio di Marta. Jacques doveva esserle accanto. Nessuna licenza mi aveva tanto poco commosso quanto questa, accordata all'infelice per la nascita di suo figlio. In un estremo sussulto di infantilismo ridevo persino all'idea che quei giorni di licenza li doveva a me. La nostra casa respirava la pace. I presentimenti veri si formano a delle profondità che il nostro spirito non visita. Talvolta essi ci fanno anche compiere degli atti che interpretiamo alla rovescia. Mi credevo più tenero per via della mia felicità e mi rallegravo di sapere Marta in una casa che i miei lieti ricordi trasformavano in un feticcio. Un uomo disordinato che sta per morire e non lo sospetta, all'improvviso mette ordine intorno a sé, la sua vita cambia, cataloga delle carte, rinuncia ai suoi vizi, i suoi familiari si congratulano. Perciò la sua morte brutale pare tanto più ingiusta. Stava per vivere felice. Ugualmente la quiete nuova della mia esistenza era la preparazione del condannato. Mi credevo figlio migliore, perché ne avevo uno. Perciò la mia tenerezza mi riavvicinava a mio padre, a mia madre, perché qualcosa in me diceva che tra poco avrei avuto bisogno di loro. Un giorno, alla mezza, i miei fratelli tornano da scuola gridando che Marta è morta. Il fulmine che cade su un uomo è così immediato che egli non soffre. Ma per colui che l'accompagna è un triste spettacolo, mentre io non provavo nulla. Il volto di mio padre si decomponeva. Prese i miei fratelli a spintoni, uscite, strillò, siete pazzi, siete pazzi. Io avevo la sensazione di indurirmi, di pietrificarmi. In seguito, come in un secondo, sotto gli occhi di un moribondo si svolgono tutti i ricordi di un'esistenza. La certezza mi rivelò il mio amore, con tutti i suoi lati mostruosi. Singhiozzavo perché mio padre piangeva. Allora mia madre mi prese nelle sue mani, gli occhi asciutti, mi curò freddamente, teneramente, come se si fosse trattato di una scarlattina. Nei primi giorni il mio deliquio spiegò ai miei fratelli il silenzio della casa. I giorni seguenti non capirono più, non erano mai stati i loro proibiti i giochi chiassosi, stavano zitti. ma a mezzogiorno i loro passi sulle lastre di pietra dell'anticamera mi facevano perdere conoscenza, come se ogni volta avessero dovuto annunciarmi la morte di Marta. Marta. Poiché la mia gelosia la seguiva fino alla tomba, speravo che non vi fosse niente dopo la morte. Così è insopportabile che la persona amata si trovi in numerosa compagnia in una festa dove noi non siamo. Il mio cuore era nell'età in cui non si pensa ancora all'avvenire. Sì, sì, è proprio il nulla che desideravo per Marta, piuttosto che un mondo nuovo dove raggiungerla un giorno. L'unica volta che intravidi Jacques fu alcuni mesi dopo. Avendo saputo che mio padre possedeva degli acquerelli di Marta, desiderava vederli. Siamo sempre avidi di carpire ciò che riguarda gli esseri che amiamo. Volevo vedere l'uomo al quale Marta aveva concesso la sua mano. Trattenendo il fiato e camminando in punta di piedi, mi diressi verso la porta socchiusa. Capitai in tempo per sentire: mia moglie è morta chiamandolo. Povero piccolo, non è forse la mia unica ragione di vita? Vedendo quel vedovo così dignitoso, padrone della propria disperazione, capii che alla lunga l'ordine si dispone da solo nelle cose. Non avevo appena saputo che Marta era morta chiamandomi e che mio figlio avrebbe avuto un'esistenza conveniente. Paola Pitagora ha letto Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.